Io prometto sul mio onore di fare del mio meglio nel compiere il mio dovere verso Dio e il mio paese, nell'aiutare gli altri in ogni circostanza, nell'osservare la legge Scout. Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. Le 16:06 minuti e un qualunque venerdì 17 giugno del 2011. Questa è Radio 24. Io sono Matteo Caccia e sono qui. Ma dove vanno esattamente le persone quando le città si svuotano? No, perché ogni anno in questo periodo parte il solito adagio delle città che si svuotano perché sono finite le scuole. Che questa è una storia che un po' è vera e un po' no, perché alla fine non è che tutte le mamme della città c'hanno il tempo, i soldi o le case di vacanza per pigliare i figli, caricarli in auto e andare a godersi la brezza del mare o della montagna. Probabilmente è molto più facile che i genitori sbolognino i figli in uno di quei posti che sono per metà odiati e per metà amati dai ragazzi, i campi estivi. Tutti quanti abbiamo fatto un campo estivo, almeno una volta nella vita. I campi estivi di oggi sostituiscono però quella che un tempo era la colonia. La colonia è qualcosa di mitologico nelle estati giovanili di milioni di italiani. Le colonie erano delle realtà che stavano a cavallo tra la cosa più divertente che uno potesse fare e la più terribile che si potesse sperimentare. Un giorno, qualche anno fa, sono stato a Salice Dulzio, o Sauze Dulze, come dicono che si chiami in realtà, e lì ho visto la vecchia colonia della Fiat. Da fuori sembra un carcere, anche se adesso è un albergo di lusso. E quando sento le persone che parlano dei ricordi della colonia, perché tutti, più o meno tutti quelli sopra i 40, hanno almeno un ricordo di una colonia. Insomma, tutti quanti raccontano di regole ferree da seguire, di orari imprescindibili o di abitudini che solo in colonia riuscivi ad avere, solo quella te le creava. Ecco, io in colonia non ci sono mai stato, così come non ho fatto lo scout, non ho fatto i campi estivi della parrocchia o delle scuole, del comune, nemmeno quelli di calcio e di basket. Se però qualcuno di voi, e so che c'è qualcuno di voi all'ascolto, che li ha fatti, e ha voglia di raccontarmi che cosa succedeva in quei campi estivi, ma soprattutto nelle colonie estive, io oggi sono qui. 800240024 349 238 6666. Avete presente le colonie estive, no? Quelle che si facevano, boh, negli anni... Quando è che sono cominciate le prime colonie estive? Negli anni 50, credo, o forse addirittura prima, in cui tutti questi... ci sono queste immagini in cui ci sono questi bambini tutti vestiti in modo uguale su una spiaggia. E c'è una cosa che mi sono sempre domandato delle colonie: com'è che sono veramente... non esiste una via di mezzo? Cioè, non è che... com'era la colonia? Bah sì, carina. No, è... o è la cosa più divertente che io abbia mai fatto, mi ricordi bellissimi, compagni, libertà, oppure il contrario, ho pianto per 2 settimane quando venivano a trovarmi i miei genitori, gli saltavo in braccio disperato. Qualsiasi sia il ricordo, in qualsiasi colonia siate stati, 800240024 oppure 349 238 6666. Vi faccio un esempio. Bartolo, sono i messaggi che sono arrivati a io sono qui @radio24.it, ma anche e soprattutto a Matteo Caccia io sono qui, che è sul profilo Facebook. Per 6 anni nella colonia Fiat anni 60, un lager. Mi sa che non gli è piaciuto. Sacchi o Sashi, questo ancora devo capire come si pronuncia questo nome. Sono andato una volta in colonia con la scuola. Ricordo solo che davano al mattino, quando si doveva andare in gita, il tè al limone, altrimenti con il latte stavamo male. E io puntualmente stavo male comunque con il tè. Queste sono negative, invece positive. Chiara: la mia prima colonia è stata quando avevo 6 anni, in montagna, in Trentino. Ero emozionatissima, ero la più piccola di tutto il gruppo e mi piaceva stare in mezzo ai grandi. Dopo 10 giorni i genitori sono venuti in visita giornaliera. Quando sono ripartiti alla sera tutti piangevano. Io ero contenta che si poteva tornare a giocare liberamente, ma siccome mi sentivo diversa, cercavo di piangere come loro, ma non mi scendevano le lacrime. 349-238-6666 oppure 800240024. Diamo, visto che oggi è venerdì e settimana prossima è la, oltre che la penultima settimana di questo programma, è anche la settimana della serata live di giovedì 23, è ufficiale che la serata è sold out, non ci sono più posti a disposizione, e probabilmente anche la cosiddetta lista d'attesa praticamente è, insomma, è piena. Quindi ricordo che quelli che stanno organizzando dei viaggi per venire, che stanno prendendo pulmini o furgoni, mi hanno detto che c'è gente che viene da Roma, da Modena e dal Trentino, mi diceva prima Elisa giù al bar. Spero che abbiate prenotato, perché altrimenti è un problema. Via Monterosa 91 alle 21, io sono qui live. Ci saranno delle cose che non avete mai sentito. Detto così sembra chissà che, semplicemente che ieri ho riguardato, Tiziano, lo dico ufficialmente anche a te, ho riguardato le cose che ho scelto per la serata e ho deciso di aggiungere delle piccole cose nuove. In particolar modo, essendo la radio, le avete sempre solo sentite e in quella serata ci sarà qualcosa che vedrete per la prima volta. Torniamo alle colonie, 800240024, 349-238-6666. Sapete che in questo periodo ho frequentato un mio vicino di casa che semplicemente aveva meno di 10 anni, si chiama Ettore, ne ho parlato un pochettino in questi ultimi mesi. Ogni tanto capitava che veniva in casa mia e io gli facevo fare cose che lui in sostanza in casa sua non poteva fare, tipo bere la Coca-Cola o giocare alla PlayStation, e mi ci sono affezionato chiaramente a questo vicino di casa, anche se era un bambino e coi bambini non ci so proprio fare molto bene. E, insomma, sembra che partano tutti e ieri ho saputo che parte anche lui. Quando Ettore ieri pomeriggio mi è apparso davanti alla porta di casa, che ultimamente tengo aperta perché fa un po' più caldo in questi giorni, era tutto vestito da Boy Scout e mi sono un po' spaventato. Perché la divisa da Scout, anche se è azzurra ed è poco minacciosa, è comunque sempre una divisa. E quando viene indossata con degli scarponcini tipo anfibi, sembra proprio quella da militari. Insomma, mi sono ripreso e gli ho detto di entrare perché lì sulla porta sembrava un piantone. Che lui non sa che cosa sia, ovviamente, ma io lo so e non è divertente. Quindi gli ho chiesto che cosa ci facesse vestito da scout e lui mi ha risposto mettendosi sull'attenti e declamando un giuramento trovato su internet, credo, che faceva così: io prometto sul mio onore di fare del mio meglio nel compiere il mio dovere verso Dio e il mio paese, nell'aiutare gli altri in ogni circostanza, nell'osservare la legge scout. E allora lì ho detto l'unica cosa che sapevo: parola di Lupetto? E lui, fierissimo, parola di Lupetto. Insomma, Ettore parte. Va in vacanza, va a fare un campo Boy Scout, che alla sua età potrebbe essere il più grande trauma della sua vita, oppure la sua completa salvezza. È felice Ettore. Mi racconta un sacco di cose che non sapevo. La mia cultura fino a ieri si limitava a una citazione di Oscar Wilde, che recitava più o meno così: i Boy Scout sono bambini vestiti da cretini che seguono un cretino vestito da bambino. Ettore invece mi ha detto che no, che loro fanno parte di un movimento, che è un movimento che si impegna nella ricerca spirituale sul senso della vita, dei doveri verso se stessi e verso la società. Uno sforzo continuo nella costruzione di un mondo migliore, nel rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo. Mi ha detto che loro credono nella condanna della violenza come mezzo per la risoluzione dei conflitti. Credono nel valore dell'accoglienza e nel rispetto delle differenze etniche, culturali e sociali, e anche nella realizzazione di un processo di sviluppo etico e sostenibile. E allora lì ho capito che Ettore a un incontro scout in realtà c'era già andato, e io non lo sapevo, e che gli avevano dato anche un libro, ma soprattutto ho scoperto che ha una gran bella memoria per un bambino della sua età. E allora gli ho detto che doveva essere fiero, e gli ho anche detto che era molto elegante. E poi, siccome la parola lupetto è l'unica che conosco, gli ho chiesto se lui sarà un lupetto per davvero, o se prima avevo sbagliato a parlare. Lui invece è preparatissimo, mi ha detto che avevo detto giusto, e che lui farà parte della Sestiglia dei Pezzati. Che come compiti avranno preparare il campo, accendere il fuoco, partecipare ai pattugliamenti, anche notturni, studiare le stelle e difendere il campo dagli animali. Io lì l'ho guardato e gli ho chiesto: ma scusa, quali animali? E lui mi ha detto: soprattutto lupi e orsi. Forse non lo sai, ma la Val Brembana ne è piena. Satellite, I've got to see this through. You stole and burned most everything, the life that I once knew. But through the flames, your eyes explained you didn't mean it true. Sleeping tight, crept to your side, revenge should come for you. Your waking eyes, oh paradise, love at first sight true. I can't explain my vanished pain, night by your side. Since then it's me and you. But age, it came and took the red beard that I knew. But that's okay, in here today, the gray, it suits you too. E dopo aver scoperto che la Val Brembana è una specie di riserva di animali pericolosi, ho chiesto ad Ettore qualche altra spiegazione. Non perché fossi curioso, che in fondo, cioè, a dire la verità, non me ne fregava tantissimo. È solo che vedere quel bambino così entusiasta mi faceva felice in qualche modo. E io, che di solito sono abbastanza egoista, e me lo dico pure da solo, così nessuno si prende il merito, stavolta sarei stato anche ore ad ascoltarlo mentre mi raccontava di che cosa fosse una sestiglia. Insomma, Ettore beve la mia coca dalla bottiglia senza chiedermelo e poi ricomincia a parlare di coccinelle, di lupetti, di squadriglie, di reparti. Mi spiega che nel branco la sestiglia prende il nome da uno dei possibili colori che può assumere il pelo del lupo: bianchi, neri, rossi, fulvi, grigi, pezzati o bruni. E che lui ha letto tutto sui lupi. E che non sono come li raccontano in quei film di vampiri tipo Twilight, che lui non ha visto, però non so come lo conosce. Sono una specie di cani. Vivono in gruppo, ma stanno bene anche da soli. Il colore del loro pelo cambia a seconda della stagione dell'anno. Il gruppo si chiama Branco ed è guidato da marito e moglie, lupo ovviamente, che si chiamano maschio alfa e femmina alfa. E loro non è che diano degli ordini, loro semplicemente fanno quello che gli pare e il resto del branco li segue. I branchi possono avere 3 lupi o anche 20, ma mai di più. Di solito sono 6 o 7, così come le sestiglie. E poi ci sono i lupi solitari, che possono decidere di cambiare branco e per cercarlo possono viaggiare anche per distanze lunghissime. Individui che si disperdono devono evitare i territori di altri lupi, perché gli intrusi sui territori già occupati vengono cacciati via oppure uccisi. Insomma, Ettore mi stava dando una lezione coi fiocchi. Solo che adesso io volevo sapere di più di lui, di come stava lui, se era felice di partire. Quello un po' si vedeva, ma i legna o il tennis? Lui mi ha risposto che Ilenia andava in Sardegna e che a lui non gliene fregava niente, perché non era stata simpatica con lui. E allora ciao. Ah, e mi ha detto anche che il tennis non gli piaceva più e che quindi forse l'anno prossimo poteva andare a giocare a calcio. Che i suoi non erano tanto d'accordo, ma lui piaceva giocarlo alla PlayStation e forse allora, boh, magari gli piaceva anche giocarlo davvero. Avevo un'energia che gli invidiavo, una luce negli occhi che chissà se io l'ho mai avuta. Mi ha fatto venire voglia di andare a fare il Boy Scout anche a me, adesso. Invece stavo per piangere perché me lo portavano via in qualche modo. Però peso 80 kg, sono altro 1,80 e non ho pianto, nemmeno quando l'ho abbracciato per salutarlo. E quando se n'è uscito dalla porta per tornare a casa, tutto vestito di azzurro e di blu, mi sono detto che anche io dovevo fare qualcosa. Andare da qualche parte. E ho pensato che questo fine settimana, non so come, avrei provato ad andare a trovare Samir. E quindi ho deciso. Si parte per il Danubio. Domani, in qualche maniera, si va a Linz. Era, me lo ricordo bene, la colonia estiva, non si respirava, son sicuro che la corriera partiva. E c'era un re. Buon pomeriggio, io mi chiamo Russell e sono un esploratore della natura selvaggia della tribù 54, dodicesimo branco. Ha bisogno che l'aiuti in qualcosa oggi, signore? No. Potrei aiutarla ad attraversare la strada? No. Potrei aiutarla ad attraversare il cortile? No. Potrei aiutarla ad attraversare il portico? No. Ma devo aiutarla ad attraversare qualcosa? No, me la cavo benissimo. Up, uno dei film più malinconici e deliziosi degli ultimi anni. 80024 0024 349 238 6666. Si è scatenato lo scautismo, ma questo lo sapevamo già. Si è scatenato soprattutto lo scautismo su questa frase che adesso vi rileggo, che è una citazione. Boy Scout sono bambini vestiti da cretini e bla bla bla, che seguono un cretino vestito da bambino. Ho detto che era di Oscar Wilde ed è venuto giù chiaramente il diluvio. Non è di Oscar Wilde, è di Bernard Shaw. Non è di Oscar Wilde, è di Churchill. Qualcuno ha detto che è di Churchill addirittura. Io credo che sia di Bernard Shaw, però adesso forse adesso Viola probabilmente lo troverà. Viola è Bernard Shaw, giusto? Giusto? Viola dice di sì. Viola dice di sì. 80024 0024 349 238 6666 Cologna, un mese a Senigallia con le FS, spiaggia privata, non si entra in acqua, palestra magnifica mai usata, sala cinema grandiosa, due film visti, che noia Maura. E poi già solo il nome è meraviglioso. Cologna della cassa edile a Pinarella di Cervia, 12-13 anni, prima limonata, prima sigaretta. Ivano, una sola estate a Rimini, eravamo in tre. Cioè, l'unica cosa che può essere interessante della Cologna è che sia almeno in 20. Eravamo in tre e si piangeva tutte le sere. E poi ancora, Sauz e Dulz, ricordo che per toccare mia madre mettevo la mano tra le grate. Giovanni, tutte le sere tonno e uova sode. Insomma, c'è qualcuno a cui ste colonie sono piaciute? Usciamo dalle colonie e torniamo nel campo scout. Andiamo da Jacopo da Varese. Pronto Jacopo? Ciao. Ciao, come stai? Abbastanza bene. Quanti anni? Io bene, grazie. Quanti anni hai, Jacopo? 24. Hai 24 anni e hai smesso di fare lo scout? Sì, io ho smesso. L'ultimo anno l'ho fatto a 14 anni, perché io facevo parte di un gruppo scout un po' particolare. Noi non eravamo i classici che andavamo in giro con i pantaloncini corti e la divisa blu, noi eravamo vestiti completamente di verde militare ed eravamo praticamente un gruppo quasi, ci definivano paramilitari. Ma perché, scusami, ma cosa eravate? Varese 4, Varese 6? Noi eravamo Varese 2. Varese 2, ma è perché, cosa eravate, a Gesci o? Ma sai che non me lo ricordo, sono passati veramente... Vabbè, pregavate o no? La differenza la fa sì, quella. Sì, tanto. Veramente tanto. Senti, dimmi il tuo totem, Jacopo. Il mio totem? Sì, cioè il tuo nome, se sei uno scout e non avevi un nome tipo, che so io, Albero Silenzioso? No, noi non le avevamo quelle cose, l'unica cosa che... Ma cosa facevate? Dire... Sparavate voi? Cos'eravate? Dove andavate a fare i campi, Jacopo? Noi andavamo in Val Bedretto, su in Svizzera. In Val Bedretto, e che cosa facevate, Jacopo? Sento un entusiasmo incredibile nella tua voce, quindi evidentemente ti sei proprio divertito, mi sembra di capire. Ma ti dico, allora, i primi tre anni, perché i campi duravano per quattro anni, i primi tre anni sono stati terrificanti, nel senso che, cioè, quando si tornava a casa con una fame inaudita, dicevi, ma chi me l'ha fatto fare, veramente, non ne potevi più. Poi invece l'ultimo anno è stato strepitoso, mi sono divertito come non mai, forse anche perché essendo più grande rispetto agli altri, essendo, diciamo, anche uno dei capi squadra, capi squadriglia, era veramente tutto diverso. Jacopo, che cosa fai adesso nella vita? Io sono geometra, sono un progettista. Ma dai, ma esistono ancora i geometri? Cioè, nel senso, solo geometra, non hai... E disegni le case? No, non proprio le case, sono disegno delle carpenterie metalliche, però, diciamo, sì, disegno e progetto. Ma quindi non sei già il geometra del comune? No, magari, cavolo, non sarebbe male. Ah sì? C'è tanta voglia di geometra di comune? Più che altro, conta che io ho 24 anni, trovare un posto di lavoro fisso è come cercare un ago di un pagliaio, forse più difficile, ma anche non sarebbe male. Sì, ma comunque poi quelli che sono geometra del comune non lo molleranno mai il posto da geometra del comune, perché esatto. Tutti vorrebbero fare geometra del comune. Esatto. Senti Jacopo, ti ringrazio molto e ti auguro buona giornata. Vatti a fare un altro campo scout, va, che così magari ti tiri un po' su di morale. Va. Fai una buona giornata, grazie mille. Anche a te. Nella foto di oggi siamo in un laboratorio, è un laboratorio credo di restauro, perché ci sono un sacco di quadri, tutti tutti, come dire, imbrigliati in grandi trabattelli, insomma qualcosa che li sostiene. Ci sono delle luci al neon però abbastanza brutte. Il laboratorio è grandissimo e immagino anche probabilmente pieno di solventi. Claudio De Alberti, 33 anni. Sono in visita presso l'Istituto Centrale del Restauro di Roma. Sono in un luogo affascinante e pieno di suggestione. Ecco, io sono qui. Io sono qui, chiocciolaradio24.it. C'è ancora spazio per qualche foto da qui al primo di luglio, all'ultima puntata. Ma c'è ancora spazio invece, e ci sarà per tutta l'estate, per i vostri racconti. Il racconto che vi racconta Io sono qui, chiocciolaradio24.it, è sempre quello l'indirizzo a cui spedirlo. Un racconto di una pagina che racconti un episodio della vostra vita, che in qualche modo racconta meglio di qualsiasi altro chi siete voi. Torniamo alle colonie. Sono arrivate davvero testimonianze diverse, ovviamente, no? O è magnifico o è bruttissimo. Ugo mi scrive: Roccastrada in Toscana, avevo 7 anni, dormivamo nei sacchi a pelo, facevamo i turni di lavaggio di pentole. Alla partenza da casa piangevo, ma poi ero felice di essere là. PS: una volta, come battesimo del fuoco, dovevamo compiere un furto. Io rubai un duplo al bar dove andavo per telefonare a casa la sera. E poi andiamo a sentire invece direttamente Valeria dalla provincia, no, dalla provincia, da Brescia. Pronto, Valeria? Ciao Matteo. Ciao, come stai? Bene, bene. Tu hai fatto 10 anni di colonie? Sì, allora, io credo di detenere il record della permanenza presso la colonia estiva, perché sempre la stessa? 5 anni, sempre la stessa, tutte le estati, ma non un turno che era praticamente di 20 giorni, bensì 2 turni, per cui io facevo 20 più 20, 40 giorni, tra giugno e luglio. E questo dai 5 ai 15 anni? Esatto. Senti, esatto. ma come mai, scusami, i tuoi genitori ti mal sopportavano a tal punto da farti andare via per 2 mesi, un mese? No, comincio a sospettarlo, no, il discorso era che io già andavo a scuola dalle suore, era la congrega delle suore Dorotee, e praticamente il prolungamento... nel senso che già il nome fa paura, la congrega delle suore Dorotee. Esatto. Ti immagini delle signore con dei veli neri, delle suore? No, diciamo che c'era... Nonostante diciamo fossero gli anni 70, c'erano delle suore che avevano erano evolute, nel senso che avevano persino il costume da bagno intero. Per cui sì, è stata... Dov'era la colonia, Valeria? Era Riccione. Senti, nonostante tutto sei cresciuta una personcina equilibrata. Spero di sì. Cosa fai nella vita? Sono rappresentante, per cui diciamo... E improvvisamente ti è cambiato il tono della voce. Ma niente, sono rappresentante. No, va bene. No, ascolta, cosa rappresenti? No, quello che... Vabbè, è un'azienda che produce alimentari, preferisco non dirlo. Va bene. No, ma la cosa che volevo raccontarti era che praticamente ogni anno, quindi praticamente per 10 anni, c'era la classica serata del film settimanale. E io mi sono beccata per 10 anni il primo turno, il film Altrimenti ci arrabbiamo... con Spencer e Terence Hill. E il secondo turno L'albero di Natale, che non so se vi ricordate. No. Era di un drammatico, praticamente era la storia di un bambino che veniva come si dice, radiato da delle radiazioni di un'esplosione nucleare e che poi moriva di leucemia. Ma chi sceglieva i film per le suore della congrega delle orsoline? Delle Dorotee, perdonami. Valeria, ti ringrazio molto, buona giornata. Ciao. Andiamo da Marco, perché la colonia della Fiat ha un'aura strana intorno a sé. Pronto, Marco? Pronto. Ciao, come stai? Bene. Quale colonia della Fiat era? Allora, più che della Fiat era della Lancia, perché quando mio padre lavorava la Lancia era ancora aperta. Era ancora Lancia. Era ancora Lancia dove, quando era aperta, a Chivasso... Sì, dico che era separata dalla Fiat ancora, era solo Lancia. E dove si trovava la colonia? E poi è fallita e l'ha presa la Fiat. E vabbè, sì, poi la storia, insomma, la conosciamo. Dove si trovava la colonia? A Igea Marina. Igea Marina, che sta, scusami? È in Emilia-Romagna. In Emilia-Romagna. Però dalla parte della Toscana. Sì, esatto. No, come dalla Toscana? No, dall'altra parte, sull'Adriatico, ovviamente, non dà sul Tirreno l'Emilia-Romagna, ma chi se ne frega. Senti, perché sembrava di fare il militare? Perché tutti i giorni ci contavano quanti eravamo, il capocamerata doveva dire il nome, il numero della stanza, il numero della... Quindi c'era del nonnismo anche? Anche se sì, delle volte mi sono trovato anche che mi sbrandavano dal letto. Madonna. Ed era sempre un gran ridere, immagino, no? Perché il nonnismo è sempre un gran ridere quando ti fanno questi scherzi. Hai voglia. Marco, grazie le mille. Le 2 di notte è bellissimo. Buona giornata, grazie. Buona giornata. Andiamo un attimo da Cristina, da Como, perché di solito erano i bambini che piangevano, invece Cristina dice che ha fatto piangere sua madre. Pronto? Eh sì, l'ho fatta piangere, sì. Ciao Matteo. Ciao, ma perché, scusa, eri tu a far piangere la madre? Praticamente lei mi chiamava, sai, un giorno sì, un giorno no, così, ma io ero fuori a giocare, che mi interessava a me di lei, sinceramente. E quindi io, e niente, gli ho detto, mamma, ma guarda che non c'è bisogno che mi chiami tutte le sere, io sto bene, se per caso mi capita qualcosa ti chiamerò io. E lei poi il giorno dopo non mi ha più chiamato, e quando mi ha chiamato dopo 2 o 3 giorni mi ha detto che l'avevo fatta piangere. Ma dov'era la colonia? Anch'io Igea Marina. Tutti Igea Marina, che tra l'altro dove va in vacanza Alessandro Marco Tulli, credo, Igea Marina, probabilmente va per scaricarci i figli. Senti, quanti anni avevi, Cristina? Io l'ho fatta 2 anni, il primo anno ne avevo 7, il secondo 8. E adesso ne hai? Completamente da sola, eh? Adesso? Adesso ne ho 35. Hai dei figli? No, no. Ma ok, quindi ti chiedo se mi manderesti in colonia, ma no, chi se ne... Dove vai in vacanza invece? No, guarda, se fossi ancora come l'ho vissuta io, sicuramente sì. Ma credo che non ci siano più le colonie, però, Cristina. Peccato. O se qualcuno... Perché peccato, sì. Se qualcuno sa di qualche colonia... Io mi sono anche innamorata, Matteo, mi sono anche innamorata. Io avevo 8 anni e lui aveva 22. Naturalmente platonico, per l'amor di Dio, lui non mi ha mai... Me lo auguro. No, diamine, no, per l'amor di Dio. E però era bello, io me lo ricordo con questi capelli mossi un po' lunghi, il viso non me lo ricordo più. Ma bene, il nome ce lo ricordiamo, Cristina? Il nome Luca. Luca. Come dimenticarlo? Ciao Cristina, grazie. Ciao Matteo. Ciao, buona giornata. Danilo è stato cacciato dalla colonia. Pronto Danilo? Pronto, ciao. Ciao, tu eri di quelli che facevano gli scherzi molto ridere forte di notte? Sì, ma avevo 6-7 anni. Ero già un disperato. Quindi che scherzi erano? Tipo mettere il dentifricio sotto il naso che poi ti fai la pipì addosso? Cioè, hai azzeccato proprio, soltanto che lo mettevo invece alle orecchie. È un bambino, ha causato un'otite. Ma eri un imbecille. Pesante, sì. Oppure non lo so, mettevo il sale nel cappuccino, robe così. Che ridere, veramente che gran ridere. Cosa fai adesso, Danilo, nella vita? Adesso provo a fare il ricercatore. In Italia è un po' tosta. Ricercatore di cosa? In chimica del farmaco. Vivo a Brescia, faccio il pendolare, lavoro a Milano, mando giù un po' di tutto. Adesso vedi che mi torna tutto. E infatti indietro. Stavo per chiederti, c'è una legge del contrappasso per chi fa gli scherzi in colonia? Sì, che guadagni 250 euro al mese, tipo. No, non proprio così, non è che faccio la parte così, però ci avviciniamo. Ma sei in treno, Danilo? Sì, sto tornando a casa. Oggi sono scappato un paio di ore prima, che erano tutti in riunione, li ho salutato. Ma quindi tu ascolti la radio con un auricolare dal treno? Eh sì, ho il cellulare con la radio e ascolto. Bravo Danilo, buona giornata. Buona giornata. Ciao. Grazie. Andiamo da Mario, dalla provincia di Verona. Pronto Mario? Ciao Matteo. Ciao, come stai? Bene, grazie. Prima volta in colonia avevi 8 anni, eri a Cesenatico. 8 anni, ed ero a Cesenatico, esattamente, assieme al fratello che ha 4 anni più di me. E i nostri genitori ci hanno mandato appunto a Cesenatico. Sì, ma che anni erano? Che anni erano, Mario? Erano, dunque, ho 43 anni. Erano 35 anni fa, quindi era il 76. Era il 76. Senti, e la suora ti voleva fare mangiare il purè. Esattamente, perché un giorno appunto c'era anche il purè nel menù del giorno. Beh, immagino ci fosse sempre il purè, perché il purè è una di quelle cose che nel menù della colonia, come dell'ospedale, è fisso. Certo, e io a me il purè proprio non piace tuttora, dunque, e mi ricordo appunto che quel giorno lì la suora insisteva perché dovevo mangiare il purè per dopo uscire con il fratello e anche gli altri amici a giocare, e io non volevo assolutamente, non piaceva. Allora mio fratello, spiandomi dalla finestra, no, mi vede che ero ancora là, e cosa ha fatto? Di nascosto è entrato, si è pappato tutto il purè in fretta, in modo che la suora, quando è tornata, ha visto che avevo pulito bene il piatto e ha detto, hai visto, mo, che hai imparato a mangiare anche il purè, e mi ha fatto uscire col fratello. Mario, quante volte l'hai fatta la colonia? L'ho fatta una volta lì al mare e l'anno successivo in montagna, ma è andata un po' meglio in montagna. Ti ringrazio molto Mario, buona giornata. Ciao, grazie. Ciao, grazie. È arrivato un messaggio che adesso non troverò mai, lo so, che diceva ho fatto una colonia estiva ma in inverno al mare, la cosa più triste della mia vita. Mentre si intrattenevano in questi discorsi, il signore e la signora Samsa, osservando la figlia che si faceva sempre più animata, si resero conto, quasi nello stesso istante, che essa negli ultimi tempi, nonostante le sofferenze che le avevano sbiancato le guance, era sbocciata in una bella e florida giovinetta. Facendosi più silenziosi e intendendosi quasi inconsciamente con lo sguardo, pensarono che oramai era giunta l'ora di cercarle un buon marito. E fu per loro quasi una conferma dei nuovi sogni, dei buoni propositi, vedere come al termine del tragitto la figlia si alzasse per prima, stirando le sue giovani membra. Sarebbe stato facile leggere l'inizio di questo racconto. Destandosi un mattino da sogni inquieti, Gregor Samsa si trovò tramutato nel suo letto in un enorme insetto. E invece ho letto la fine. Questo è un pezzo ovviamente tratto dalle Metamorfosi di Franz Kafka, che trovate domenica con la Domenica del Sole 24 Ore, con soli 50 centesimi in più. A 2 euro, da qui per tutta l'estate, vi portate a casa il giornale, la Domenica del Sole 24 Ore e un racconto di un grande autore di tutti i tempi. Grazie a Tiziano Bonini, a Pietro Lacorte, a Viola Bottoni e a Stefano D'Andrea. Domani non lo so, ma oggi io sono qui. E voi? Dove siete?